Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 8 minuti e 45 secondi, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Come avete sentito anche nei nostri giornali radio, è una giornata piuttosto intensa, è quella nella quale il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare la decisione di finanza pubblica e il piano nazionale di riforme che vanno presentati a Bruxelles entro la fine di aprile. Sta parlando il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, dando delucidazioni su tutto questo. Su questo tema ha parlato anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Dedicheremo a questo naturalmente ampio spazio all'interno di questa trasmissione. Resteremo in apertura sui temi, per così dire, governativi, perché oggi c'è stato un'altra presentazione, quella che ha fatto il neo ministro dei beni culturali Giancarlo Galan, indicando quali saranno le linee guida del suo ministero. Come sapete, un tema che è diventato sempre più prettamente economico, perché si è parlato moltissimo delle risorse dedicate alla cultura e ai beni culturali. Sentiremo su questo anche l'opinione di un economista, vedremo di capire insomma come potranno virare le cose, visto che oggettivamente le risorse sono poche e vanno sfruttate nella maniera migliore possibile. C'è poi anche il tema dell'apertura del mondo dei beni culturali ai privati, che suscita ampie discussioni e spesso prese di posizione opposte. Parleremo di questo e poi parleremo anche di Cina, perché oltre ai dati che sono arrivati oggi sul numero di milionari, le stime dell'inflazione e via dicendo, c'è anche una notizia interessante che arriva dal mondo delle imprese italiane. Il gruppo Marcegaglia ha messo in piedi un nuovo investimento in Cina, uno stabilimento, ed è il più grosso investimento italiano nel paese da 10 anni a questa parte. Naturalmente parleremo anche di mercati. Dopo 2 giorni di calo, oggi borse positive, abbastanza positive a dire la verità. Il FTSE MIB guadagna 0,5 punto percentuale in questo momento, il FTSE All Share altrettanto, lo 0,54%. Tutto questo in una giornata nella quale le banche non vanno tanto bene, quindi bisogna dire il segnale abbastanza positivo, perché in genere quando le banche vanno male la piazza affari va male, perché abbiamo Unicredit che cede lo 0,28, il Monte dei Paschi, del quale abbiamo parlato ieri, dell'aumento di capitale, che cede l'1,5, così come l'1,41 cede la Popolare di Milano, mentre tra i titoli migliori c'è Pirelli che guadagna il 2,60, Atlantia il 2,5, Buzzi Unice il 2,4%. Il resto d'Europa, Francoforte la migliore, più 1,22, Londra guadagna l'1,03, Parigi lo 0,89%, e l'euro che è sempre forte, anche se in questo momento quota sotto 1,45, 1,44 e 86. Veniamo alle notizie in breve di questa giornata. Ancora in risalita l'oro a $1,457,10 l'oncia sui mercati asiatici, in rialzo dello 0,3%. Per quanto riguarda invece il petrolio, l'apertura a New York è stata ancora in rialzo, anche qua $107,13 al barile. A proposito di energia, ci sono due notizie che stanno arrivando in questi minuti. C'è il dato fornito dall'Unione Petrolifera sui consumi petroliferi italiani nel mese di marzo, che sono calati del 4,5%. E poi viene battuta l'agenzia di stampa Radio Cori, Il Sole 24 Ore, il fatto che il primo ministro egiziano ha deciso di rivedere tutti i trattati sul gas dell'Egitto, compresi i contratti sottoscritti con Israele, con le seguenti parole: bisogna vendere il gas egiziano a prezzi che apportino i più alti redditi per l'Egitto. Vedremo che impatto avrà questo naturalmente sui prezzi dell'energia nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Intanto parliamo di Cina. Si diceva, ci sono un paio di dati interessanti. Alla fine del 2010 il numero di cinesi con un patrimonio di almeno 10 milioni di yuan, che è il milione di euro, ha superato il milione. Lo ha rivelato una recente ricerca della rivista Euron Report, che è l'equivalente cinese di Forbes. Naturalmente poi anche là ci sono ricchezze nascoste come da noi, quindi a queste cifre probabilmente vanno aggiornate in qualche altro modo. Comunque, sempre dalla Cina, in base a un sondaggio condotto dal Dipartimento Economico dell'Agenzia Nuova Cina, l'indice dei prezzi al consumo potrebbe registrare un aumento superiore al 5,2%. Parliamo di marzo, naturalmente. Si diceva dell'inaugurazione il prossimo 19 aprile a Yangzhou in Cina del primo stabilimento in Asia del gruppo Marcegaglia, appunto il più importante investimento di un'impresa italiana nel celeste impero degli ultimi 10 anni, il più grande polo produttivo d'eccellenza per la fabbricazione di tubi di alta precisione. Veniamo all'Europa, nella Francia innanzitutto ci sono dei dati sull'inflazione, a marzo è salita al 2,2%, i massimi da oltre 2 anni, e anche sulla base di queste motivazioni, di questi dati che arrivano costantemente, che la BCE, come sapete, ha deciso di alzare i tassi di interesse un quarto di punto la settimana scorsa. Per quanto riguarda l'euro, ha raggiunto un massimo 1,4516, ma come vi dicevamo ha già ritracciato. Sempre l'Europa in difficoltà in questo caso, il Portogallo innanzitutto, situazione grave, delicata e urgente, la definisce il presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso. La Commissione Europea è pronta a fare l'impossibile per arrivare al più presto alla messa a punto del piano di salvataggio. Il lato delle banche, l'altra questione di tensione che riguarda un po' tutte le banche europee, ma soprattutto e naturalmente quelle irlandesi e poi quelle spagnole. I nuovi stress test prenderanno in considerazione anche le perdite sul debito sovrano, ha detto Andrea Enria, presidente della European Banking Authority. E c'è una raccomandazione anche dal Fondo Monetario Internazionale, le banche europee devono rafforzare ulteriormente i propri bilanci, le prospettive del settore finanziario dell'area euro sono strettamente legate appunto agli stress test del debito sovrano. E ancora, secondo il Fondo Monetario, il debito che giungerà a maturazione nei prossimi 2 anni è pari a 3.600 miliardi di dollari, sottolinea l'FMI che le esigenze di rifinanziamento saranno molto acute per le banche irlandesi e tedesche, che si troveranno a rifinanziare il 40-50% del proprio debito nei prossimi 2 anni. Allora, tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale parla anche delle banche italiane. Il Peter Dettels, che è vice direttore del Dipartimento Affari Monetari e Mercati dei Capitali del Fondo Monetario, dice che le principali banche italiane hanno capito il messaggio sulla necessità di rafforzare le basi di capitale. E ancora, le banche italiane sono piuttosto solide. Parla anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, in tutto il mondo si delinea la necessità di far cessare il sostegno straordinario fornito alle economie dai bilanci pubblici e dalle politiche monetarie. Dice che la politica monetaria della BCE è molto accomodante. E poi interviene in maniera velata sulle polemiche che hanno riguardato l'Italia e l'Unione Europea in quest'ultimo periodo sul tema immigrazione. Per noi italiani, per noi europei, dice l'Unione Europea, è la condizione essenziale per progredire ancora, ma c'è anche una bacchettata. Il nostro paese, non corresponsabile della crisi, vi è entrato già debole, ha pagato un prezzo alto di riduzione del reddito e dell'occupazione, ne esce con i suoi problemi strutturali ancora da risolvere. Ci vuole sviluppo, la politica deve creare le condizioni, così Draghi, all'Italia serve una crescita del 2% per un calo di 5 punti del debito. L'Italia ci prova con la decisione di finanza pubblica, il piano nazionale di riforma, programma di interventi per l'economia che dovrà essere presentato a Bruxelles entro la fine di aprile. Ne parleremo un po' più approfonditamente e più avanti nel corso del programma. Comunque si parla di sostegno allo sviluppo del mezzogiorno, potenziamento delle infrastrutture, riduzione del debito pubblico, accrescimento della produttività e allineamento dei salari alla produttività, aumento del tasso occupazione femminile, apertura del mercato, servizi e industrie a rete, miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e naturalmente la riforma fiscale. Su questo sentiamo il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Sono 11 priorità. Il grosso della parte programmatica indicativa sta nella sezione numero 3 del profilo di lungo andare. Ci sono delle cose che noi riteniamo possano essere focalizzate da subito. Una è la riforma fiscale. La riforma fiscale sarà costruita in base allo schema che trovate scritto in questo documento. Sarà basata su alcuni principi, c'è la esposizione dei criteri che intendiamo seguire, stiamo seguendo il lavoro della commissione di studio, delle commissioni di studio. Appena abbiamo quelle carte chiederemo al Parlamento la delega. Così il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che tra l'altro sta continuando a parlare, dice: non abbiamo emergenze o urgenze, non c'è bisogno di una manovra bis nel 2011. Allora, veniamo al primo argomento di questa giornata. Come vi dicevo, del tema invece della decisione di finanza pubblica e del piano di riforme parleremo più avanti, anche con Nino Pesole del Sole 24 Ore, sentiremo altre voci del ministro dell'economia. Ma parliamo di un altro ministro adesso, quello della cultura, Giancarlo Galan, che lo scorso 23 marzo ha sostituito Sandro Bondi e ha presentato oggi al Senato il suo programma. Per darvi un'idea, i problemi ci sono, insomma, al di là di Pompei. Oggi è crollata un'altra colonna del ponte di Rialto. Negli ultimi 3 anni è la quarta colonna che si stacca. Siamo a Venezia, naturalmente. I fondi, c'è la questione dei fondi naturalmente, i 236 milioni che verranno recuperati con la nuova accisa sulla benzina e diesel hanno riportato i fondi 2011 per la cultura sopra i livelli del 2010, come vi abbiamo ampiamente raccontato. Allora, saluto intanto Filippo Cavazzoni dell'Istituto Bruno Leoni, che si occupa di questi temi. Buonasera Cavazzoni. Buonasera. E che scrive tra le altre cose per una serie di quotidiani, tra cui il Riformista, sempre naturalmente su questi argomenti. Però iniziamo sentendo che cosa ha detto oggi il ministro Galan. La cultura è la benzina che ha reso unico il nostro paese, il settore che più ci ha arricchiti e fatto crescere nei millenni. Investire in questo campo non è indispensabile, è fondamentale. Occorre dunque, prima di tutto, utilizzare fino in fondo le risorse a disposizione. Non servono più soldi, ma è necessario acquisire la necessaria capacità di spenderli. Quando si vuole fare una cosa e se ne ha la capacità, i soldi si trovano. Un esempio su tutti, Pompei. L'abbinamento cultura e turismo culturale può rappresentare un fattore decisivo per affrontare le emergenze economiche e contribuire anche alla creazione di reddito e di nuovi posti di lavoro. In relazione a una fase storica in cui la domanda di cultura registra un continuo aumento presso il pubblico di tutto il mondo e i settori economici legati all'offerta culturale intravedono prospettive di crescita superiori alla media e solidamente ancorati alla portata del grande valore del patrimonio comunicato. Naturalmente non sappiamo quanto sia azzeccato, quanto sia voluto, quanto sia invece una gaffe il paragone fatto dal ministro Galan tra la benzina e la cultura, visto che è proprio l'accisa sulla benzina a finanziare l'innalzamento dei fondi per la cultura. Allora, Cavazzoni, le dichiarazioni di oggi di Galan, perché non ci sono solamente queste, sono abbastanza indicative su quello che vuole fare. C'è una sostanziale apertura ai privati, l'idea anche di una sorta di credito d'imposta o di sgravi fiscali, comunque per chi decide di investire nel patrimonio culturale di questo paese. Naturalmente qua si solleveranno, e già lo sappiamo, miriadi di polemiche, ecco, però vorrei innanzitutto una sua opinione. Certo, prima di tutto, quando oggi sono uscite le agenzie che riportavano alcune dichiarazioni del ministro Galan, sono rimasto sorpreso perché nelle agenzie si diceva che ci sono 31 miliardi da spendere per la cultura. Insomma, la cifra mi sembrava veramente esagerata, dal momento che il Ministero dei Beni Culturali per il 2011 avrà a disposizione circa 1,5 miliardi. Poi, andando a leggermi l'intervento di Galan di oggi al Senato, insomma, ho capito che questi 31 miliardi erano riferiti ai soldi che la Comunità Europea ha destinato per il Sud, quindi diciamo che era una notizia fuorviante quella che è uscita. C'è un problema indubbiamente di capacità di spesa del Ministero, quindi è vero che le risorse sono andate calando in questi ultimi anni, però il tema di come spenderle è d'attualità, e quindi sì, credo che... E soprattutto, Cavazzoni, se si riescono a spendere questi soldi, perché il tema mi sembra anche quello, cioè ed è un classico tema italiano, esattamente come i fondi strutturali che arrivano al Sud e che regolarmente rimangono là e non vengono spesi, i fondi strutturali dell'Unione Europea, allo stesso modo c'è un problema simile, parallelo, anche per quanto riguarda il nostro mondo dei beni culturali. Infatti molte dichiarazioni di oggi del ministro Galan ovviamente indicavano delle linee guida che lui seguirà nel suo operato, però c'era una dichiarazione molto precisa e molto dettagliata, ed era proprio riferita a questo punto, cioè la capacità di spesa del ministero. I residui passivi delle sovrintendenze sono molto elevati, e questo è dovuto al fatto che le procedure per la realizzazione dei lavori pubblici sono molto lunghe, si protraggono nel tempo, sono farraginose, e quindi il ministro ha detto oggi che lui farà una riforma del codice dei contratti pubblici, ovvero innalzerà la soglia della trattativa privata da 500.000 a 1,5 milioni di euro. Questo ha detto proprio il ministro Galan, per evitare le lungaggini che comportano questi residui passivi nelle casse delle sovrintendenze. Sì, quindi, poi visto che siamo in Italia, ci vorrà un signor livello di controllo, insomma, se affidi a trattativa privata un lavoro da 1,5 milioni di euro, no? Certo, il contraltare è proprio questo, la trasparenza. Il problema della trasparenza indubbiamente emerge quando si bypassa la gara, quindi se non si vogliono fare gare ma si vogliono fare trattative private, bisogna stare ben attenti a mettere in atto tutte le procedure di trasparenza del caso. Allora, poi l'altra questione è naturalmente l'arrivo dei privati, e da molti temuto e giudicato e visto con sguardo terrorizzato, insomma, questi terribili privati che arrivano nel mondo dei beni culturali. A me sembra, naturalmente è solamente un'opinione, che sia ben difficile fare diversamente, soprattutto in queste condizioni economico-finanziarie. Sì, c'è sia il discorso economico, ovvero che lo Stato non può farsi carico di gestire, tutelare, valorizzare tutto il nostro patrimonio, ma da un altro punto di vista bisogna anche dire che forse i privati potrebbero essere anche più efficienti dello Stato. Ad esempio, non c'è bisogno di alienare il nostro patrimonio, di venderlo ai privati, ma ci sono alcuni strumenti come quello della concessione che può tranquillamente essere utilizzato, ovvero la proprietà del patrimonio culturale rimane in capo allo Stato o agli enti territoriali, mentre invece la gestione viene affidata ai privati. Quindi questo sarebbe uno strumento che si potrebbe utilizzare perché i privati vengano coinvolti e perché lo Stato mantenga il controllo della tutela del proprio patrimonio. E qua arriviamo all'altro punto, la questione di una possibilità di sgravi fiscali. Insomma, se io decido di investire 50 euro nella manutenzione del Colosseo, è anche corretto che non mi siano tassati come i normali guadagni, no? Certo, sì. E il problema delle donazioni, ma anche delle sponsorizzazioni, insomma tutto quello che riguarda il coinvolgimento dei privati è un tema molto sensibile. Ovviamente l'incentivo che si deve dare ai privati è quello dello sgravio fiscale, quindi delle agevolazioni fiscali per favorire l'afflusso di risorse. Un dato è abbastanza emblematico, ovvero le donazioni pro capite per l'arte e per la cultura negli Stati Uniti sono di 20 euro pro capite, in Italia il dato è dello 0,9 euro, quindi se il miraggio è quello degli Stati Uniti, perché è un sistema che si basa su sgravi fiscali, intervento pubblico indiretto, ecco, di strada abbiamo da farne, ma lo strumento è questo, gli sgravi fiscali per far affluire risorse private nell'arte e nella cultura. Va bene, al 349-238-6666, battutaccia, allora Totò faceva bene a vendere la Fontana di Trevi. No, non è esattamente questo il punto è appunto trovare risorse per mantenere un patrimonio culturale enorme. E un'ultima cosa, dice Galan, voglio che i soldi che vanno ai musei, che entrano ai musei e alle aree archeologiche vadano direttamente al ministero e non passino dal tesoro come avviene adesso. Lei come la vede questa? Cioè, le sembra che possa servire a qualcosa o è solamente una questione di mettere paletti anche politici intorno a determinate quantità di denaro? Beh, diciamo che il ministro fa il suo gioco, nel senso che se i soldi non devono passare dal ministro dell'economia ci sono più probabilità che lui li possa spendere se gli arrivano direttamente, perché sappiamo bene che le resistenze in questi mesi, in questi anni, per quanto riguarda il finanziamento alla cultura, arrivavano proprio dal ministero dell'economia. Quindi in un certo senso Galan si vuole cautelare e vuole dire provo ad avere più risorse senza dover chiedere il permesso al ministro dell'economia. Vedremo che cosa succederà, vedremo se riuscirà a mettere in atto questo progetto, perché di belle speranze in questo settore ne abbiamo sentite tantissime e in tantissimi anni. Grazie nel frattempo a Filippo Cavazzoni dell'Istituto Bruno Leoni e buonasera. Buonasera. Siamo ai mercati. Ciao Condina, Radio Cuore il Sole 24 ore, buonasera. Ciao Simone, buonasera a voi. Allora, giornata complessivamente positiva dopo due giorni di calo e nonostante i cali delle banche. Sì, giornata positiva, Piazza Affari un pochino peggio rispetto agli altri comunque. A Milano i finanziari hanno pagato anche il report annuale di Standard & Poor's sulle banche, che ha annunciato un 2011 difficile per gli istituti di credito italiani, quindi rialzi più 0,4% alla fine per Milano, mentre Francoforte è arrivata a guadagnare l'1%. Male, dicevi, i finanziari, fondiari assai, nuovi realizzi meno 1,7%, Popolare di Milano perde 1,5% nel giorno del CDA straordinario, in cui comunque si dovrà parlare, seppur non ufficialmente, del possibile aumento di capitale. Dei Paschi, meno 1,3% il giorno dopo che il titolo aveva guadagnato molto dopo l'annuncio dell'aumento di capitale. Allora, veniamo, poi magari ritorniamo anche sui titoli andati male oggi, verrei a quelli positivi, però Pirelli su tutti un più 2,6%, come mai? Sì, gli operatori hanno sostanzialmente premiato la decisione annunciata dal management di aumentare il prezzo degli pneumatici in Europa, Medio Oriente e Africa. La società ha annunciato appunto che dal prossimo 1 giugno i pneumatici estivi aumenteranno i prezzi del 6% e quelli invernali addirittura del 12%, quindi questo lascia intendere un aumento dei ricavi e quindi la borsa ha sostanzialmente promosso questa iniziativa della società. Bene anche Atlantia, più 2,47%. Sì, Atlantia veniva da un periodo un po' difficile in borsa, oggi le indiscrezioni su un aumento del traffico dei mezzi pesanti sulle autostrade italiane in questo primo scorcio di 2011, traffico che è aumentato del 4,3%, sembrano numeri piccoli, ma poi ogni giorno passano centinaia di migliaia di veicoli e con essi aumentano i ricavi. Ovviamente, bene anche Buzzi Unicem, il settore com'è stato oggi? Il settore è molto brillante, lunedì la tedesca OKF aveva abbassato i target sul 2011 e quindi tutti i titoli in Europa erano andati sostanzialmente in profondo rosso, oggi il rimbalzo OKF a Francoforte ha guadagnato più di 4 punti e anche Buzzi, insomma, ha giovato di questo rimbalzo generalizzato. Oh, e vedo molto bene anche Enel oggi, un più 1,94%, ci sono motivi particolari? Ma no, Enel, diciamo, nella mattinata sono arrivate delle promozioni da parte degli analisti, sia per Enel sia per Enel Green Power. E anche nel Green Power vediamo a 2,03 più del 25% guadagnato dal collocamento dell'IPO. Il gruppo guidato da Fulvio Conti sta vivendo un buon periodo, almeno in borsa. Questo per quanto riguarda Enel, anche se T Microelectronics va abbastanza bene, oggi un più 0,8%, anche se nel corso di giornata mi sembra che fosse andata ancora meglio, no? Sì, era arrivata a guadagnare anche 2 punti, ieri era stata la peggiore, aveva perso quasi il 4%, questa mattina sono arrivati i dati oltre le attese dell'olandese ASML che fa chip come ST, il gruppo olandese ha realizzato un utile netto di 395 milioni, praticamente quadruplicato rispetto all'esercizio precedente, e quindi ci si attendono dei dati brillanti anche da ST. Allora, altri titoli in positivo che troviamo oggi: Diasori in più 1,75, A2A più 1,64, poco più di un punto percentuale di guadagno, tanto per Saipio in quanto per Mediolanum, Prismian e Fiat Industrial, appena sotto TOTS più 0,94%, Lottomatica più 0,86, Campari più 0,85, Xor più 0,83%. Ti riporto in fondo al listino con Fondiaria Sai. Continuano a essere giorni complessi, settimane complesse per il titolo e per l'azienda, naturalmente. Sì, siamo un po' sull'otto volante. Ieri era andata molto bene, oggi meno 1,7%, si alternano notizie positive, tra virgolette, e notizie negative. Sicuramente il titolo paga la grossa indecisione che c'è attorno al riassetto sia di Fondiaria Sai, sia di quelle che poi sono le scatole sopra, quindi prima, fine e poi ancora più sopra le holding con cui la famiglia Ligresti controlla, almeno per il momento, queste assicurazioni. Naturalmente, bene, ringrazio Ceo Condina di Radio Corri, il Sole 24 Ore. Ah, un'ultima nota, Ceo, il valutario, oggi l'euro è arrivato a toccare, è arrivato sopra a quota 1,45, poi ha ritracciato anche di parecchio, perché è 1,44,73 in questo momento. Ci sono motivi particolari, dico, per il ritracciamento? Ma ha toccato dei massimi, oggi c'è stato qualche realizzo, comunque quello che si dice sul mercato valutario per adesso, questa impennata dell'euro è legata fondamentalmente al differenziale sulla forbice dei tassi delle banche centrali, la prospettiva di un rialzo comunque nuovamente a breve dei tassi di interesse europei non fa che dare benzina all'euro. Naturalmente. Grazie dunque a Ceo Condina di Radio Corri il Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Grazie, buonasera a voi. Allora, breve riassunto degli altri titoli, perché naturalmente non li abbiamo dati tutti, almeno quelli sul FTSE MIB. Dei bancari abbiamo ampiamente detto, abbiamo dato, come si dice. Tra i titoli negativo anche Mediaset, un calo dello 0,90%, UbiBanca giù di mezzo punto percentuale, così come Unicredit, Autogrill giù dello 0,36, Telecom Italia dello 0,28, Generali dello 0,19, Luxottica dello 0,05, perfetto. Pareggio per Intesa San Paolo, lievemente in positivo Bulgari più 0,08%, Ansaldo dello 0,1%, così come Azimut, Eni, Fiat e Mediobanca, Finmeccanica su dello 0,28%, Tenaris dello 0,29%, Enel Green Power lo abbiamo detto, in pregilo più 0,44%, Terna mezzo punto percentuale di guadagno, Bene Parmalat più 0,70%, Snam Rete Gas più 0,8%, così come ST Microelectronics, Exor altrettanto più 0,8%. Finanza pubblica e non solo, c'è anche il piano nazionale di riforme, insieme a questa decisione di finanza pubblica che di fatto sostituisce il vecchio DPF, tutte carte che debbono essere presentate a Bruxelles entro la fine di aprile. Saluto Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, buonasera Dino. Buonasera. Buonasera Simone, un saluto. E che ci accompagna sempre quando dobbiamo parlare di queste cose e che ringraziamo particolarmente perché oggi è una giornata particolarmente impegnativa per una serie di motivi, a partire da questo appunto. Allora, che cosa è successo? Sono state diffuse delle stime, il Tesoro indica il PIL 2011, lo rivede lievemente al ribasso la stima, più 1,1%, debito al 120% del PIL, per scendere poi l'anno prossimo al 119,4. Si prevede un caro del tasso di disoccupazione all'8,1% nel 2013, più o meno di 1,01 ogni anno a partire dal 2012, e poi una serie di interventi che sono il piano nazionale di riforme, che forse è la parte che ci interessa un po' di più, insomma quella sulla quale focalizzarci. 11 punti: sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno, potenziamento delle infrastrutture, riduzione del debito pubblico, accrescimento della produttività e allineamento dei salari alla produttività. Insomma, ci sono una serie di elementi, tra l'altro da te, Dino, ampiamente anticipati sul giornale di oggi, sul Sole 24 Ore di oggi. Ecco, nell'idea di Tremonti, che cos'è che può partire subito? Perché questo non è molto chiaro, perché il piano nazionale di riforme è una cosa che si proietta su 4 anni, appunto. Che cos'è che può partire subito? Beh, intanto tutto il ragionamento, i numeri che tu hai citato richiedono una premessa, e cioè che queste cifre, ed è questa anche una parte della risposta alla tua domanda, mettono in luce che il problema numero uno del nostro paese è la bassa crescita. Ovviamente non lo diciamo noi per primi, lo dicono un po' tutti gli osservatori, gli organismi internazionali, lo stesso governo. E dunque, per far sì che quei numerini, che sono molto esigui, perché quando si parla di un tasso di crescita dell'1,1, sperando appunto che vada bene, siamo ampiamente mezzo punto al di sotto della media europea e molto molto al di sotto di quanto crescerà la Germania e la Francia. Allora il problema fondamentale, ed è la scommessa di questo piano nazionale di riforma, è quello di rilanciare la crescita, ma senza fare debito, senza fare deficit. Allora, come si fa per un paese che ha il 120% del PIL, del debito pubblico, uno dei debiti pubblici più alti al mondo? E lo si fa appunto cercando di eliminare quelli che nel documento vengono definiti i colli di bottiglia, che ricordano molto i lacci e lacciuoli che citava Guido Carli molti anni fa. Cosa può partire subito? Beh, intanto c'è un passaggio relativo alla riforma fiscale che è abbastanza interessante, perché il Ministro dell'Economia dice che non appena saranno completati i lavori preliminari dei 4 gruppi che stanno lavorando, come dire, alla fase di cognizione della materia fiscale, allora verrà approvata una legge delega, poiché quello che si sa è che entro fine aprile i documenti dovrebbero essere pronti, è probabile, anzi potremmo dire che è auspicabile, che già nel mese di maggio possa vedere la luce una legge delega. Il che naturalmente, Dino, come sappiamo, non vuol dire avere una legge, ma vuol dire avere un quadro di riferimento nel quale poi bisogna muoversi. Quindi i tempi comunque non saranno brevi anche in quel caso, no? Perché ovviamente, come è avvenuto per la legge delega sul federalismo fiscale, che è stata approvata il 5 maggio del 2009 e solo quest'anno abbiamo visto i decreti attuativi, qualsiasi legge delega, soprattutto se di questa portata, prevede un iter parlamentare prima e poi di attuazione attraverso i relativi decreti legislativi, che non è brevissimo. Ma d'altro canto questo si può capire, perché nel momento in cui si mette mano in modo strutturale al fisco è meglio non cedere agli interventi immediati e fare un'operazione di sistema. Anche le altre riforme che sono segnalate, che tu citavi prima, nel piano nazionale, sono tutte riforme che possono dispiegare i loro effetti in termini di maggiore crescita nel medio periodo, tanto che c'è una parte, una tabella interessante, in cui addirittura si tenta, credo per la prima volta, di ricordare una stima dei possibili effetti di ogni singola riforma, ad esempio quella sulle pensioni già varata, quella del mercato del lavoro, oppure sul capitale umano e l'innovazione, in termini di maggiore crescita. Anche questo è un esercizio ipotetico, perché come possiamo prevedere noi come sarà il ciclo economico internazionale italiano nel 2014 o nel 2020? Però comunque è un tentativo, e questa è l'unica strada, peraltro, perché se non si può fare crescita giustamente aumentando il deficit, allora bisogna ridurre le spese, non si possono aumentare le tasse ovviamente, fare una seria lotta all'evasione e poi eliminare questi colli di bottiglia. Quindi la strada è giusta, però è un documento programmatico, vediamo cosa sarà nei prossimi mesi. Naturalmente, e vedremo anche che cosa avrà da dire Bruxelles, che cosa faranno gli altri colleghi europei, perché poi a questo punto, ora che diventa tutto pubblico di questi piani nazionali di riforma che bisogna presentare a Bruxelles, naturalmente scatteranno raffronti di qualsiasi tipo, raffronti e confronti di qualsiasi tipo, e vedremo anche come evolverà il dibattito naturalmente. Nel frattempo un ringraziamento a Dino Pesole del Sole 24 Ore per essere stato con noi, grazie Dino e buonasera. Sera. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E adesso iniziamo ad ascoltarci qualcosina dalla conferenza stampa di oggi, conferenza stampa e Consiglio dei Ministri avvenuti in una pausa dei lavori parlamentari. In Parlamento, come sapete, si sta votando la cosiddetta prescrizione breve. Dunque, sentiamo proprio sul tema del debito pubblico il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Dal 2015, quindi, anche noi ci dedicheremo alla riduzione di questo debito pubblico, ma non con quell'1,20% su quei 60 miliardi di debito in più, ma per quella parte che è superiore all'aggregazione del debito pubblico col debito privato. Noi dobbiamo considerare anche che il debito pubblico è per oltre il 50% posseduto dai nostri cittadini, e quindi c'è un credito dei cittadini nei confronti dello Stato. Riassumendo e semplicisticamente, noi abbiamo uno Stato che è indebitato e abbiamo dei cittadini che sono benestanti. Così il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che poi in conferenza stampa ha parlato di tutt'altro, come avete sentito anche nei nostri giornali radio, quindi di immigrazione. La parte più intensa dal lato economico è stata trattata naturalmente dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Vi abbiamo già fatto ascoltare il tema della riforma fiscale, poi magari lo riprenderemo dopo la pausa. Intanto sentiamo che cosa intende fare il governo dal lato del processo civile. Poi abbiamo dei meccanismi di deflazione e accelerazione del processo civile. Fate conto che il 25% delle cause civili è fatto da cause INPS, dove l'INPS, dove queste partite previdenziali hanno un tasso di soccombenza pubblica altissimo, un costo che supera quasi sempre il valore della lite. Noi pensiamo che con alcune norme di deflazione e di semplificazione il volume enorme del processo civile può essere molto ridotto. Pensiamo che sia questa la via per liberare risorse e per rendere giustizia civile, processo civile, in modo da servire l'economia e la società molto meglio di quanto è finora. Vedo che dagli SMS predomina un po' di scetticismo tra chi ci dice 30 anni che si dicono le stesse cose ma poi non cambia nulla, e poi chi è scettico sul fatto che si possa fare crescita senza soldi, insomma senza mettere quattrini, senza fare nuovo debito pubblico o fare deficit. Fatto sta che purtroppo tocca provarci, perché le condizioni non consentono un incremento del debito pubblico. pubblico. Del resto è di poco fa, durante la sua visita a Praga, anche la dichiarazione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che insiste con il Parlamento perché lavori esattamente per la riduzione del debito. Giusto per chi non è stato in ascolto nella parte nella quale abbiamo parlato di mercati, un quadro di borsa: il FTSE MIB ha chiuso con un rialzo dello 0,36%, il FTSE All Share dello 0,37%, negativi complessivamente i bancari. I titoli migliori oggi: Pirelli più 2,60, Atlantia più 2,47, con l'Europa che ha fatto complessivamente lievemente meglio. In questo momento l'America cede lo 0,04% sul Dow Jones e guadagna lo 0,34% sul Nasdaq, e l'euro che torna a scendere di nuovo a 1,44,68 dopo aver toccato gli 1,45,15 nella giornata di oggi. Dunque, veniamo alle parole del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, poi sentiremo anche qual è la posizione del Partito Democratico, che ha presentato un contropiano di riforme proprio nella giornata di oggi e contemporaneamente al Consiglio dei Ministri. Iniziamo dalla presentazione generale del piano di riforma e dalla riforma fiscale. Sono 11 priorità. Il grosso della parte programmatica indicativa sta nella sezione numero 3 del profilo di lungo andare. Ci sono delle cose che noi riteniamo possano essere focalizzate da subito. Una è la riforma fiscale. La riforma fiscale sarà costruita in base allo schema che trovate scritto in questo documento. Sarà basata su alcuni principi, c'è la esposizione dei criteri che intendiamo seguire, stiamo seguendo il lavoro della commissione di studio, delle commissioni di studio. Appena abbiamo quelle carte, chiederemo al Parlamento la delega. Sempre il Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, sul tema delle infrastrutture. Nella discussione con la Commissione europea una linea di assenso alle ipotesi che stiamo facendo per crediti d'imposta e fiscalità di vantaggio nel Meridione, vogliamo concentrarci sulle infrastrutture. Per essere chiari, noi davvero siamo convinti la ragione della politica meridionale non è la somma delle ragioni e degli interessi regionali. La questione meridionale è una questione nazionale e ci vuole una regia nazionale. Non può essere affidata alle scelte delle singole regioni. Nell'interesse del Meridione e delle regioni ci vuole un disegno comune. Opere pubbliche. Noi abbiamo visto che in Italia i tempi di costruzione delle opere pubbliche raddoppiano nel tempo e nel costo, perché non ci sono limiti alla facoltà di mettere riserve e limiti alla facoltà di chiedere compensative. Per essere chiari, vinci una gara d'appalto a 100, base 100, la vinci a 30 e poi cominci a mettere le riserve e il costo diventa il doppio nel doppio del tempo. Lo stesso è le compensative, sempre hanno piccole cose, ma sono fondamentali. Il meccanismo è tale per cui alla conferenza tra regioni, province e comuni, su un'opera comincia la gara a chiedere opere compensative e quindi il costo di una autostrada, di una bretella, di un intervento di opera pubblica lievita, perché ogni sindaco, ogni provincia chiede qualcosa. Mettere una percentuale rigida sulle compensative e sulle riserve è un modo per fare davvero le opere pubbliche, che se no sono bloccate nel tempo e raddoppiate nei costi. Infine, il lato università e ricerca, così come ne abbiamo parlato all'inizio, si ragiona su un credito d'imposta per i finanziamenti dei privati e i beni culturali, così il governo sta ragionando su un credito d'imposta anche da questo lato. Ricerca e sviluppo. Noi crediamo di avere chance di fare un esperimento che, se funziona, diventa a regime. tutte le imprese, tutte le industrie che fanno ricerca in università o istituti di ricerca non hanno solo la deduzione dei costi della ricerca commissionata alle università e agli istituti, ma in più un credito d'imposta pari al 90% della ricerca stessa. Noi pensiamo che sia un meccanismo che funziona e che possiamo sostenere finanziariamente. È il momento anche di sentire l'opinione dell'opposizione, che ha convocato una conferenza stampa apposta oggi, appunto contemporaneamente al Consiglio dei Ministri. Sentiamo dunque il leader del Partito Democratico, Pierluigi Bersani. Francamente, in una parola, a noi sembrano indicazioni che assomigliano a acqua fresca, perché quando si fa un elenco di titoli tipo accelerazione delle opere pubbliche, estensione della contrattazione decentrata, riforma contratti apprendistato, riprogrammazione ennesima dei fondi comunitari, o si lega il regime fiscale di favore per il mezzogiorno a una pratica da fare a Bruxelles. Qui apro e chiudo una parentesi: se vogliono finalmente riconoscere che il credito. Allora c'è il meccanismo. Forse un problema, no? Ecco. Noi l'avevamo fatto senza tante pratiche a Bruxelles. Non si facciano diversivi. Nell'insieme sono proposte che non arrivano a un obiettivo peraltro, che riteniamo peraltro molto sottodimensionato, di un incremento dello 0,4, poi dello 0,3, dello 0,2 del potenziale di crescita, così come il governo prevede per i prossimi 3 anni, e riteniamo anche che i nuovi dati che arrivano sia per Fondo Monetario Internazionale, sia per stessa fonte Ministero del Tesoro, preludono, a quanto dicono le cifre, ad una manovra nel corso del 2011. Penso che sarebbe giusto, invece di discutere di processo breve, di discutere di questo. Così Pierluigi Bersani. Va notato che poco fa il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha smentito la necessità di una manovra bis. Sarà inaugurato il prossimo 19 aprile a Yangzhou, in Cina, il primo stabilimento in Asia del gruppo Marcegaglia. Ne parliamo perché si tratta del più importante investimento di un'impresa italiana nella zona negli ultimi 10 anni e il più grande polo produttivo d'eccellenza per la fabbricazione di tubi di alta precisione. Siamo in collegamento con Antonio Marcegaglia, amministratore delegato del gruppo. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, che tipo di investimento è? Voi avete creato un sito produttivo. Chiariamo una cosa, che non si tratta propriamente di delocalizzazione, perché voi vi rivolgete al mercato cinese, no? Esattamente. L'investimento del nostro gruppo in Cina è il più grande investimento italiano industriale degli ultimi 10 anni. Fa parte di una politica di internazionalizzazione e di crescita nel mondo globale dell'acciaio del nostro gruppo, ma come giustamente ha sottolineato, andiamo a fare pezzi di crescita aggiuntiva all'estero per inseguire nuovi mercati e nuovi spunti, fermo restando la nostra solida base in Italia, sia sotto un profilo produttivo che occupazionale. In che rapporto, cioè che dimensioni avrà questo stabilimento? Quanto produrrà per un paese che, lo ricordiamo, è il primo produttore e il primo consumatore al mondo di acciaio? Esattamente, noi infatti siamo andati con una certa ambizione, una certa dimensione, perché l'investimento, che compreso il circolante, ammonterà a 200 milioni di euro, siamo sostanzialmente quasi completato, infatti inaugureremo la prossima settimana. Questo investimento rappresenterà nell'ambito della produzione dei tubi una piccola frazione, ma nel segmento dei tubi di qualità e dei tubi di precisione andiamo a produrre il 20% del mercato cinese e comunque vorremmo essere una piattaforma per tutti i mercati del sud-est asiatico. Obiettivi un po' più a lungo termine, ci diceva l'ambizione appunto è raggiungere il 20% del mercato in questo specifico settore, ambizioni più ampie? Diciamo che questo primo step, che comunque è significativo perché nell'arco di 2 anni lo sfruttamento della capacità ci porterà ad un fatturato già di 500 milioni di euro, pari all'8-10% di quello che prevediamo essere il fatturato del gruppo nel 2013, è comunque un primo step poiché abbiamo riservato altrettanta area di quella occupata attualmente per futuri sviluppi, quindi guardiamo alla Cina in un periodo medio-lungo e come dicevamo vogliamo crescere ancora. Il mercato cinese e il mercato del sud-est asiatico resta un mercato enorme. Non abbiamo definito piani specifici perché già questo investimento ci pare significativo, 500 milioni, 500 persone occupate che faremo in un ramp up, in una crescita di un paio d'anni, ma non vogliamo fermarci qua. Ecco, dal punto di vista del mercato cinese, e naturalmente mi riferisco al vostro specifico settore, negli anni passati si è assistito ad una crescita tumultuosa come in moltissimi altri settori della Cina. Avete idea che ci possa essere un rallentamento? Insomma, voci su questo fronte se ne sono diffuse, che ci possa essere un rallentamento nei prossimi anni? Direi di sì, perché la crescita del mercato cinese è stata a 2 cifre, oggi la Cina sfiora il 50% del consumo mondiale, ha guadagnato quasi 15 punti percentuali nell'arco di 10 anni, quindi direi che il ciclo degli investimenti fissi rallenterà e quindi è fisiologico che un consumo e una crescita dell'acciaio si ridimensioni. Però parleremo sempre di tassi importanti, 7-8% anziché 12 o 15%, e nel nostro caso specifico puntando al segmento di altissima qualità, infatti andiamo in Cina con la miglior tecnologia e le migliori risorse per intercettare una domanda crescente di prodotti di qualità, siamo invece convinti che la crescita di prodotti di qualità anche nel segmento d'acciaio, anche nel nostro settore dei tubi, salirà e salirà in maniera più importante. Quindi ridimensionamento del quadro globale, di una crescita che resta comunque sostenuta, ma nello specifico segmento dei tubi di qualità pensiamo ad un aumento più importante. Ecco, più in generale, voi avete iniziato a pianificare questo investimento, immagino parecchi mesi fa, insomma, quantomeno di questo impianto si parla quantomeno da novembre scorso. E più in generale per quanto riguarda l'arrivo delle imprese italiane in Cina, lei ha la sensazione, lavorando con il paese, che qualcosa si stia muovendo? Insomma, il nostro ritardo è stato sottolineato spesso e forse a volte anche ingiustamente, però insomma la sensazione che qualcosa si stia muovendo da questo lato sembra esserci. Ma direi di sì, e credo che in molti settori delle eccellenze italiane siano proprio legati a fenomeni specialmente dei beni di consumo o comunque di tecnologie di un certo livello qualitativo e proprio alla crescita molto rapida sia della ricchezza che dei prodotti di qualità si apre per l'Italia un'ulteriore opzione e anche se siamo effettivamente un po' in ritardo rispetto ad altri paesi credo che i colleghi imprenditori possano essere incoraggiati da questa nuova dinamica per fare un passo che ancora oggi possiamo dire non è tardivo, anche se i tempi volano e la Cina è un mondo che gira a velocità doppia rispetto al resto del globo e quindi è necessario comunque non attardarsi, quindi sono convinto che esistano queste prospettive. Soprattutto nella cosiddetta seconda fascia, cioè quella non propriamente costiera che ormai è ampiamente presidiata direi, ma un pochino più indietro dove si attende ancora una qualche forma di sviluppo industriale più forte, probabilmente anche si accetta meglio l'afflusso di capitali esteri, no? Direi di sì, però credo che anche la fascia costiera, che fosse quella più facile, diciamo così, o quella più accessibile agli investitori stranieri, quindi anche italiani, Credo che lì la quota di qualità, la fascia alta di gamma sia ancora in forte sviluppo. Viceversa, all'interno del paese ha ancora bisogno di crescita di industria, diciamo, di base e di infrastrutture e di opere pubbliche. Quindi ci sono due diversi livelli, diciamo così, di industrializzazione, entrambi interessanti, e non è un caso che la Cina negli ultimi mesi abbia registrato appunto una crescita delle importazioni rispetto alle esportazioni, proprio che il mercato interno diventa la priorità anche del governo cinese in termini di sviluppo. Tornando invece al nostro timing, effettivamente questo progetto nasce qualche anno fa, ma direi che la dimensione, 160.000 metri quadrati, la tipologia di tecnologia e tutto il progetto è stato realizzato in tempi record, perché sono poco più di 2 anni dal concepimento all'avviamento, e il solo capannone è stato costruito in 11 mesi a tempi e a costi veramente eccezionali. Bene, grazie dunque ad Antonio Marcegaglia, amministratore delegato del gruppo Marcegaglia, appunto, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, ci rimane poco tempo, giusto il tempo di rispondere ad un paio di sms, a partire dall'ascoltatore che ironizza sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, che ha detto che bisogna ridurre il debito pubblico, scherzando, dice possiamo stare tranquilli, il nostro Presidente si ridurrà stipendio, pensione, costi del Quirinale, eccetera. In realtà, ironia a parte, è esattamente quello che è avvenuto negli ultimi anni. Adesso, non per fare l'ufficio stampa di Giorgio Napolitano, e però già l'ultimo provvedimento entrato in vigore quest'anno, nel 2011, prevede una riduzione del 5, tra il 5 e il 10% sugli stipendi più alti, e un mantenimento sostanzialmente in pari dei costi che erano già stati tagliati di circa 3 milioni di euro nel 2009. Quindi da questo punto di vista, insomma, non diciamo che Napolitano possa dare lezioni, però quasi ci siamo. Ecco, invece, a chi ci scrive parlando di delocalizzazione, in questo caso, come si diceva, non si tratta di delocalizzazione. Insomma, provate voi a produrre tubi di alta precisione e poi sostenere i costi in Italia e sostenere i costi del trasporto a Shanghai. Là uno semplicemente va a creare uno stabilimento in Cina per produrre per la Cina, che, come si diceva e come sappiamo, è il più grosso importatore di acciaio, oltre che il maggiore produttore. Insomma, i dati che ci forniva Marcegaglia erano abbastanza chiari, a circa il 50% del consumo mondiale dell'acciaio. È uno di quei mercati dove chi opera nel settore, evidentemente, in un modo o nell'altro, deve esserci. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Gaia Romani in redazione, Paolo Corleoni e Roberto Scaltritti in regia. È tutto, appunto. Tra poco la Zanzara. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17:00.